24 mattino di Alessandro Milan. Buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua, e riparte una settimana di 24 mattino e riparte dunque dall'incarico dato a Mario Monti per formare il nuovo governo. Di questo parleremo, ovviamente di questo parlano anche i giornali. Noi ne parleremo alle 8.30 con due giornalisti di spessore, Giuliano Ferrara e Lucia Annunziata, saranno nostri ospiti. Allora, cosa vi attendete al nuovo governo Monti? Ne parleremo più avanti e intanto da questo proprio partiamo, dalla lettura dei giornali in edicola. È lunedì 14 novembre, il fatto che sia un momento di svolta lo si evince anche dal fatto, dalla notizia, che ci sono alcuni giornali che abitualmente lunedì non ci sono in edicola, in edizione straordinaria. Esce in edizione anche rinnovata per quel che riguarda il lunedì Il Sole 24 Ore. Incarico a Monti, il paese si riscatti, questo è il titolo dell'edizione straordinaria del Sole 24 Ore. Per il Corriere della Sera il titolo: incarico a Monti, crescita ed equità. Repubblica: Monti, l'Italia si riscatterà. Per La Stampa: Monti, crescita ed equità, ce la faremo. Il Giornale: non è finita, questo è il titolo. Per il Messaggero: incarico a Monti, l'Italia si riscatti. Libero, che appunto esce, cosa che abitualmente non succede il lunedì, non finisce qui, questo è il titolo. Il Fatto Quotidiano, altro quotidiano che esce oggi in via eccezionale, terrore default, Monti conviene a tutti. Per l'Unità: Monti Express, questo è il titolo di apertura. Insomma, Mario Monti in tutte le salse lo troveremo sui giornali, la rassegna stampa dedicata molto a questo tema, gran parte, quasi tutta, ve lo dico cari ascoltatori. Allora voglio proprio partire da alcuni aspetti, da alcuni particolari di quello che sta succedendo in questi giorni. Intanto una notizia che solo Il Secolo XIX dà a pagina 4, durante le i festeggiamenti che hanno suscitato anche polemiche di sabato, quando il premier si è dimesso, il premier Berlusconi. La notizia del Secolo XIX, lo sfogo di Silvio: mi hanno colpito con una monetina, centrato in mezzo alla fronte. E questa notizia, ripeto, la dà solo Il Secolo. La rivelazione è stata fatta da un gruppo di giovani sostenitori che ieri sono andati a trovarlo sabato sera. Silvio Berlusconi è stato colpito al volto da una moneta da 2 euro lanciata dai manifestanti che lo attendevano davanti al Quirinale. Il finestrino dell'auto blu era abbassato di un palmo e quel piccolo proiettile scagliato con forza si è infilato tra il vetro e il montante della portiera, centrando il cavaliere proprio in mezzo alla fronte. Notizia trapelata solo ieri mattina, con Berlusconi che avrebbe detto a chi è andato a trovarlo: la ferita di per sé non è nulla, ma il gesto mi ha profondamente amareggiato. Insomma, e quindi Berlusconi, che dice il secolo XIX, è stato colpito da una monetina in fronte, così ha riferito a lui, a chi è andato a trovarlo. E poi, il dramma del governo che cade, dei governi che cadono, scrive Monica Guerzoni a pagina 9 del Corriere della Sera, si accompagna sempre al dramma dei traslochi da fare. Il piccolo ma simbolico dramma del trasloco, cartoni che lasciano tristemente le sedi ministeriali diretti verso Montecitorio o Palazzo Madama, se i ministri sono onorevoli, oppure alle sedi dei partiti o verso le residenze private. E allora ecco, c'è chi, per esempio, racconta Monica Guerzoni sul Corriere, è pronto a lasciare, come il ministro o ex ministro Rotondi: ho lasciato le mie deleghe con dimissioni in bianco a Berlusconi, se le accetta e che mi frega, ho fatto il direttore di un quotidiano, l'amministratore di società, il Pony Express, consegnavo pasti pronti alle vecchiette, mi ritroverò senza lavoro. Un altro senza lavoro è Giancarlo Galan, che non è più ministro, ma non è neanche né deputato né senatore, aveva lasciato ovviamente anche l'incarico da governatore, ex governatore del Veneto. E dunque che farà? Ma Galan lo troveremo più avanti, ha fatto un'intervista molto scoppiettante sulla stampa. A Montecitorio invece ormai è una barzelletta la storia di un ex ministro che chiede e pretende un ufficio di 300 metri quadri per sé e il suo staff. Chi sia questo ex ministro non è dato saperlo, i questori alla Camera si sono tutelati dietro il segreto professionale. E poi c'è Michela Vittoria Brambilla che dice: sono molto orgogliosa di essere stata colei che ha fatto la prima riforma del turismo nella storia della Repubblica, che ha reso l'Italia animal friendly, cioè diciamo molto aperta agli animali. Lei è un'animalista convinta e dunque la Brambilla dice questo. Oppure Renato Brunetta si è già riposizionato, si è definito non cane da guardia perché non gli piace la definizione, ma controllore della coerenza del nuovo governo. Se l'amico Monti non onorerà i 39 punti dell'agenda europea saranno guai. Mi sto divertendo come un pazzo. Questa è la prima dichiarazione dell'ex ministro Brunetta. Se smontano la mia riforma, il mio voto non glielo do. Sarebbe contro natura. Questo è il ministro o ex ministro Brunetta. Va bene, come vedete, ripartiamo da qui, da Monti. C'è anche questi articoli di colore sulla Stampa, ma ci sono articoli anche che raccontano in maniera più seria quello che farà il professor Monti nei prossimi giorni. 24 mattino. Ed eccoci allora alle 7:34 minuti. Andiamo a vedere la prima giornata di Mario Monti sui giornali. Viene raccontata dopo aver ricevuto l'incarico. Mario Monti racconta Carmine Fotina, pagina 3 del Sole 24 Ore, che come detto oggi è in edizione chiuso la domenica, insomma, non come tradizionalmente avviene per l'edizione del lunedì, e quindi racconta l'attualità. Monti riceve l'incarico, l'Italia si riscatti, il premier in pectore ha parlato di crescita, di equità, una crescita con attenzione all'equità sociale. Poi in serata è andato a cena con il premier uscente, vale a dire Silvio Berlusconi. E un Monti che ieri ha ricevuto l'incarico dunque dopo che sono state ultimate le consultazioni dal capo dello Stato. E tra l'altro Repubblica, pagina 3, nell'articolo di Alberto D'Argenio, fa sapere quello che è l'agenda di Monti per il varo del nuovo governo. Tutti dicevano all'inizio che avrebbe addirittura fatto un governo lampo con la nomina dei ministri entro questa mattina per cercare di far fronte così all'apertura incerta dei mercati. In realtà Monti ha detto, per esempio, sul toto ministri sono tutti falsi i nomi che circolano, forse anche un modo così per ingannare l'opinione pubblica, e invece però ci vorrà qualche giorno prima di avere il nuovo governo. Secondo Repubblica, per l'appunto, questo farà Monti. Oggi le consultazioni con i partiti si protrarranno fino a tutta la giornata di domani, quindi domani sera il professore si recherà al Colle per sciogliere la riserva, perché ha accettato ovviamente con riserva, per vedere se c'è poi una maggioranza politica che lo sostiene in Parlamento. Non ha ancora deciso se con sé porterà domani la lista dei ministri. Medita di presentarla a Napolitano mercoledì mattina, giovedì potrebbe esserci la fiducia al Senato, venerdì alla Camera. Dunque un percorso che potrebbe portare al varo del nuovo governo in una settimana. E già ieri appunto Monti ha incontrato Berlusconi a cena. E Berlusconi ha fatto questo videomessaggio di 6 minuti e qualche secondo che ha fatto discutere, è andato in TV. Ha parlato, qualcuno ha mostrato il tono sicuramente dimesso, sicuramente provato in alcuni tratti, tutti lo hanno paragonato al più celebre videomessaggio del 94, quello con cui annunciò la discesa in campo in politica. Berlusconi in TV, basta faziosità, così titola pagina 4 La Stampa, apertura a un governo tecnico di largo consenso parlamentare. Poi si è detto anche triste per i fischi e gli insulti, abbiamo raccontato appunto del secolo XIX che dice unico giornale che Berlusconi sarebbe stato centrato anche da una monetina di 2 euro in fronte con tanto di piccola ferita. Berlusconi, non mi arrenderò, le mie dimissioni sono un gesto d'amore, questo è il titolo di pagina 6 del Corriere della Sera. Tra l'altro c'è anche un retroscena di Marco Galluzzo di Berlusconi che ieri ha incontrato una serie di deputati, o più che altro la deputata Micaela Biancofiore, che lo ha incontrato insieme a dei supporter del suo partito, e alla domanda: allora intende riposarsi, presidente, questa mattina? Ma quale riposo? Anzi, mi impegnerò ancora di più per il partito, per tenere insieme i miei elettori. Questo è quello che dice Berlusconi, che però racconta Marco Galluzzo sul Corriere, all'aria un po' di uno zar spodestato. È questo il clima che si respira dalle parti di Palazzo Grazioli, così come tra i ministri che stanno ultimando gli scatoloni. Ecco questa cosa degli scatoloni, tutti i giornali si concentrano su questa idea dei traslochi. Secondo Libero, però, in un retroscena a firma Salvatore Dama, ecco che Berlusconi si sarebbe sfogato nei confronti di chi? Di Gianfranco Fini. L'origine del disastro va collocata temporalmente lì, tutta colpa di Gianfranco, è il peccato originale, è stata la fronda della componente di Fini che si è manifestata praticamente subito dopo la vittoria elettorale del 2008 e poi è sfociata in una vera e propria diaspora. Questo è il virgolettato attribuito a Berlusconi, da lì insomma l'origine di tutti i guai. Tra l'altro un Berlusconi che raccontano i giornali avrebbe già definito Monti Mr. Spread, no? Come dire, in realtà il governo tecnico non sono stato, diciamo, buttato giù da voti di sfiducia alla Camera eccetera, ma dalla situazione internazionale, e dunque eccolo qui questo soprannome che Berlusconi avrebbe dato, Mr. Spread, a Mario Monti. E anche per il giornale che titola in prima pagina, ovviamente prendendo spunto dal video discorso di Berlusconi, non è finita, Silvio raddoppia, la strategia politica di Berlusconi sarebbe proprio questa, pronto a far ballare il governo Monti, così titola pagina 3 con l'articolo di Adalberto Signore. Il premier uscente: do pieno sostegno alle misure concordate con l'Unione Europea, ma sul resto mani libere, cioè pronto a fare ballare, perché al Senato, per esempio, la maggioranza ce l'abbiamo noi. Tra l'altro questa vicenda delle contestazioni o delle festeggiamenti, insomma delle scene di piazza avvenute sabato, danno anche lo spunto a un'intervista ad Antonio Di Pietro, intervistato all'Unità, pagina 11, Di Pietro che è stato colto in un, qualcuno dice un gestaccio, il gesto dell'ombrello, e lui dice: quale gestaccio? Ma come? Ma lei ha fatto il gesto dell'ombrello sabato. Il mio non era tecnicamente il gesto dell'ombrello, risponde Di Pietro, era un gesto che dava la rappresentazione iconografica di quello che in quel momento volevamo dire, ossia Berlusconi smamma, vai a casa devi andare, quindi non mi pento di nulla. Ma insomma queste, queste scene di sabato da alcuni giornali vengono criticate come da Libero, che dice è la sindrome di Piazzale Loreto per la sinistra. Mentre ieri che cosa è successo? Beh, si concentrano su questo, sulle consultazioni, un rito che nella Prima Repubblica poteva durare anche intere settimane. Due articoli spassosi che vi voglio segnalare, uno del Secolo XIX a firma Marco Peschiera e l'altro di Mario Aiello in prima pagina del Messaggero. Perché ieri il presidente Napolitano, beh, ha dovuto vivere una giornata anche densa di fatiche. Fatiche tra carneadi e micropartiti, anche questo è uno spaccato dell'Italia, cari lettori e cari ascoltatori. Passi per il caffè delle nove con Renato Schifani, scrive per esempio il Secolo XIX. Passi pure il cornetto delle 9:30 con Fini. Però poi l'agenda alle 10 prevedeva l'arrivo della delegazione dell'Union Val d'Otten, che in Parlamento è rappresentata da deputati 1 e senatori 0. All'uscita, unanimi, hanno espresso pieno appoggio. Poi la Südtiroler Volkspartei, con un deputato, Siegfried Brugger. E fin qui passi ancora. Poi dopo iniziavano le sigle un po', vabbè, la MPA, il Movimento per l'Autonomia, che fa capo al presidente della Sicilia, Raffaele Lombardo. Ma poi alle 11 è stata la volta della delegazione LDR Maie. Che voi dite c'è una delegazione LDR Maie. L'LDR vorrebbe dire Liberal Democratici Repubblicani, mentre Maie significa Movimento Associativo Italiani all'Estero. Tale consumo di inchiostro è per tre deputati, tre. Uno è Giorgio Lamalfa. Uno è Italo Tanoni, che nel suo curriculum esibisce i seguenti partiti: DC, Rinnovamento Italiano, Margherita, L'Ulivo, LDR, PDL, Liberal Democratici, UDC, Polo della Nazione. Tutti più o meno. Accanto a questo campione dello slalom c'era Daniela Melchiorre, gran bella quarantenne, magistrato, abile pilota nei test dell'Alce. Prima fu sottosegretario di Prodi. poi sottosegretario di Berlusconi, ad entrambi infliggendo l'umiliazione del suo passaggio alla sponda opposta. Insomma, queste le consultazioni. Anche Mario Aiello racconta in prima pagina: tanti e subito, la sfilata da record, rapidità, antibarocchismo, assenza di ritualità cerimoniosa, la consultazione stile Giorgio Napolitano sono modello TAV, anzi CAV, consultazioni ad alta velocità. In un giorno effettivamente le consultazioni nella foresta dei mini gruppi, racconta Mario Aiello, in un giorno Napolitano è riuscito a vedere tutti e a dare poi l'incarico. L'altro tema su cui si esercitano i giornali è quello del Toto Ministri. Non serve a nulla il fatto che Mario Monti abbia detto i ministri e i nomi che circolano non sono veri. Forse lo ha fatto per depistare, appunto. Forse no, sta di fatto che il Toto Ministri impazza. Allora, saranno ministri tecnici e solo tecnici, come pretende per esempio il Popolo della Libertà, oppure saranno anche ministri politici o ci sono sottosegretariati politici? Staremo a vedere in questa settimana. Sta di fatto che il Sole 24 Ore, a pagina 5, mette un'intera pagina sui nomi che circolano, no? Vabbè, torna Giuliano Amato, sul quale c'è un'opposizione da parte dei giornali di centrodestra. All'interno pare Carlo Mosca, che qualcuno fa notare il prefetto che è andato contro a Maroni e quindi potrebbe essere sgradito da una certa parte politica, ma la Lega tanto ha detto voteremo no. Alla giustizia, questo è un nodo importante, per esempio alla giustizia, secondo il Fatto Quotidiano, che oggi esce in edizione straordinaria lunedì, circola anche il nome dell'ex presidente De Siervo della Corte Costituzionale, e sul quale Berlusconi avrebbe detto un no categorico perché era presidente della Corte Costituzionale al momento in cui si è votato il lodo Alfano, e dunque per Berlusconi non va bene, così come i sgraditi al Cavaliere sono dati Salvatore Settis, ex presidente della Normale di Pisa, che è candidato ai beni culturali, oppure anche il vice direttore generale della Banca d'Italia Anna Tarantola, che è data tra i nuovi papabili. L'Unità invece mette un nome che finora non è mai comparso agli esteri, Staffan de Mistura, forse non lo conoscete, ma è un diplomatico di lunghissimo corso che al momento è rappresentante dell'Unione Europea in Afghanistan e viene dato per abbastanza certo, ma tutti danno per certi quelli che pubblicano i quotidiani. Anche il Corriere a pagina 8 mette addirittura già il premier Mario Monti con intorno i nomi. Tra l'altro sono comparse due donne, perché questa è stata la prima accusa: ma come, non ci sono donne tra i primi Toto ministri? E ecco, per esempio, agli interni compare Anna Maria Cancellieri, prefetto che è stato anche il prefetto che, quando è caduto il sindaco di Bologna e poi il sindaco di Parma, ha fatto appunto il commissario governativo. E alla pubblica amministrazione Luisa Torchia viene data da alcuni giornali come papabile. Ci sono poi le interviste di ministri che sono uscenti, sono arrabbiati, sono sfiduciati, sono alcuni incavolati neri come l'ex ministro Galan, e ci sono le misure che vorrebbe mettere in campo subito Mario Monti. Vince la palma dell'arrabbiato l'ex ministro Giancarlo Galan, che, come ho detto prima, non essendo parlamentare, perde la carica di ministro. E che fa? In un'intervista a Mattia Feltri sulla Stampa, pagina 10, l'indignato sono io, non perdonerò Tremonti. Inizia così: ministro, lei che fa ora? Non me lo dica, risponde Galan. Stamattina ho chiesto a mia moglie un soldo, le ho detto amore, è per il caffè, i giornali. E lei me lo ha dato, però mi ha detto che devo mettermi a fare qualcosa. Io sono amareggiato, avvilito, indignato con quelli che nella vita non hanno mai fatto niente di buono, ci trattano peggio dei delinquenti, urlano, sputano, tirano monetine. Lo so che anche l'asino tira un calcio al leone ferito, ma non pensavo che gli asini fossero tanti e dovrei fare un governo con quelli? Beh, non proprio con quelli, Galan. All'incirca, dopo aver sentito Franceschini alla Camera, mi veniva voglia di rispondergli con un'allocuzione romana ormai così in voga anche tra noi al nord, e cioè: ma vaffanculo. Questo Galan a Franceschini. Poi faccio una previsione, Mario Monti diventa premier, il giorno dopo Mario Draghi compra 30 miliardi, dico una cifra così, del debito, lo spread si dimezza e tutti a gridare miracolo, miracolo. Ah, eccolo lì, l'accusa dei poteri forti, già, i poteri forti. E io rimango a metà tra Frattini e Ferrara, perché è colpa nostra, dice Galan, i poteri forti dovevamo spazzarli via, distruggerli, farli a pezzi, i grandi banchieri, la finanza internazionale, le multinazionali. E poi ecco, j'accusa Tremonti. Io Tremonti non lo perdonerò mai, scrive e dice Galan. Dico solo una cosa, ho visto da parte sua un'arroganza, una protervia, ci ha trascinati nel baratro. Dico che rema contro, per carità, non mi faccia dire altro. Insomma, un Galan davvero arrabbiato. Però il tema ora più serio è che farà Monti. I giornali si concentrano su questo, il Sole 24 Ore in particolare, ci sono tante pagine di approfondimento. Beh, cari ascoltatori, l'ICI tornerà, facciamo questa previsione, l'ICI sulla prima casa. Peraltro il governo, il ministro del Tesoro, nell'ultimo atto, prima delle dimissioni, rispondendo a una delle 39 domande dell'Unione Europea, ha proprio ipotizzato questo. Tra le ipotesi, il ritorno dell'ICI porterebbe a un gettito di 3,5 miliardi di euro. E allora, ecco qui Marco Mobile a pagina 10 del Sole 24 Ore, una patrimoniale strutturale applicata ogni anno su tutti i beni mobiliari e immobiliari e soprattutto finalizzata alla riduzione del prelievo su lavoro e imprese, un pacchetto ad hoc sulla casa col ritorno dell'ICI. Il contestuale aggiornamento della percentuale di rivalutazione delle rendite catastali, inasprimento della lotta all'evasione fiscale con particolare attenzione alla tracciabilità dei pagamenti e un pieno sostegno al nuovo redditometro, questo è il tam-tam delle ultime ore delle direttrici fiscali del possibile esecutivo Monti. Il Corriere mette a pagina 15 l'alfabeto dei tagli possibili subito. È un articolo di Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo, dalla A alla Z, dalla A di Auto Blu, passando per la B di bilanci, la D di doppio lavoro per i parlamentari, la P delle province, insomma tutto quello che secondo Rizzo e Stella potrebbe fare Monti. Ma certo, quello che è in arrivo è una manovra, e l'idea di toccare l'ICI, di reintrodurre l'ICI, della patrimoniale e della lotta all'evasione fiscale sono le tre direttrici secondo il Sole 24 Ore su cui si muoverà il governo Monti. Casa nel mirino, le rendite catastali, anche su questo titolo a pagina 17 il Corriere della Sera. Sono tre le ipotesi secondo il Corriere su cui si muoverebbe Monti. La prima, il primo scenario, la possibilità che venga proposta un'operazione fatta dal governo Amato nel 92, vale a dire l'ISI, l'imposta straordinaria immobiliare. Si tratta di un prelievo secco sul valore catastale, all'epoca si applicò un'aliquota del 2 per 1000. Siccome il valore imponibile del totale degli immobili in Italia è di 2.751 miliardi di euro, una riproposizione dell'imposta con quella aliquota 2 per 1000 porterebbe oltre 5,5 miliardi di euro. La seconda ipotesi è la reintroduzione dell'ICI, come vedete riproposta, dunque possibile. La terza strada è quella dell'aumento generalizzato delle rendite catastali e quindi dell'imponibile, un percorso già praticato dal primo governo Prodi. Insomma, come vedete, questo potrebbe succedere, come anche invece sulle pensioni, titola pagina 11 il Sole 24 Ore, avanza il contributivo per tutti. Questa sarebbe la linea di secondo Marco Rogari del governo Monti, vale a dire l'estensione del metodo di calcolo contributivo nella forma pro rata per tutti. Sembra questo uno degli interventi guardati con maggiore attenzione dal neo senatore a vita Mario Monti per intervenire sul sistema previdenziale una volta ricevuto l'incarico dal presidente della Repubblica Napolitano. Questo è, cari ascoltatori, come vedete, la rassegna stampa dedicata a questo tema praticamente in maniera totale. E allora, che dire, di questo noi parleremo anche dopo il giornale radio, vale a dire l'incarico a Monti, con questa settimana di consultazione ai partiti e poi il varo del nuovo governo, se ce la farà, e anche quello che voi vi aspettate. 24 mattino. Eccoci qua, ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8:23 minuti. Allora, la settimana del governo Monti, ma intanto si è conclusa con una settimana, beh, anche con manifestazioni di piazza che hanno fatto discutere. Saluto Gianfranco Mascia, che è uno degli animatori del Popolo Viola. Buongiorno Mascia. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Lei era al Quirinale davanti sabato. Dalla mia mancanza di voce, sì. Sì. Senta, sa che il Secolo XIX scrive, solo il Secolo ha questa notizia, che Berlusconi si sarebbe sfogato con i suoi dicendo: sono stato colpito in fronte da una moneta da 2 euro che è entrata nello spiraglio del finestrino dell'auto blu e sono stato centrato in fronte. Ieri si è detto deluso, amareggiato e triste per queste scene. Io ho capito, però qualsiasi leader, non solo in Italia ma in tutto il mondo, quando decide di entrare in politica sa che possono succedere cose di questo tipo. Beh, che c'è, senso, no. Beh, aggressioni, senso, no? No, che aggressioni? Adesso siamo chiari. Io sono in campo come mobilitatore antiberlusconiano da 17 anni, dal 1993 è il giorno in cui lui ha deciso di entrare in politica e noi abbiamo fondato i comitati Bobby, Boycott al Biscione. E le assicuro che in questi 17 anni le aggressioni le abbiamo subite noi, non solo noi ma tutti i cittadini italiani. Io nel febbraio del 94 ho seguito un'aggressione personale, sono stato violentato da persone che si chiamavano Silvio Forever, preso, legato, imbavagliato. Quindi se c'è qualcuno che ha subito violenza in tutti questi anni, quelli siamo noi, e quindi non è certo Berlusconi. Mitterrand, quando è andato via, è stato subissato da fischi e da monetine. Blair ha in una presentazione di un libro preso una scarpata, però non è che hanno fatto le vittime, quindi detto, dice anche poi in Italia Craxi, quindi insomma è cos'è, uno sfogo legittimo di una popolazione, di una parte della popolazione che era esasperata. Guarda, da Berlusconi, così. Che sia esattamente questo. Allora non è possibile riconducibile al fatto che c'è qualcuno che progetta e programma queste cose, anche se avessi voluto. Io, guardi, in questi ultimi anni, soprattutto quando c'è questo governo Berlusconi, ho fatto tante iniziative. Alcune volte mi sono ritrovato con 10 persone davanti, altre con 1 milione di persone come Nobby Day. Però questo perché? Non perché io sia bravo o noi sia animatori siamo bravi a trascinare le folle, questo è un concetto di centrodestra, è perché nel momento giusto i cittadini hanno deciso di scendere in piazza o non scendere in piazza. E ieri la grande manifestazione, l'altro ieri, la grande manifestazione che c'è stata, è stata una manifestazione del tutto spontanea. E se qualcuno perché il giornale scrive era preparato, il giornale oggi scrive l'aggressione a Berlusconi era preparata. Allora guardi, certo che alcuni di noi che mobilitano cittadini pensa di organizzarsi con i loro propri amici in bacheca o i propri iscritti, come la pagina del Popolo Viola che ha 400.000 iscritti, però a volte, ripeto, iniziative lanciate su Facebook hanno funzionato, altre volte non hanno funzionato. E se questa volta ha funzionato, perché è stata un'iniziativa spontanea di tutti i cittadini italiani. Ah, quindi ci sta secondo lei anche, che ne so, il gesto di Formigoni che fa il dito medio, cioè nell'arena in quel momento ci sta tutto. C'è una differenza sostanziale. Né Mitterrand né Blair si sono azzardati a fare qualche segno di offesa nei confronti dei cittadini perché sapevano che avevano un ruolo istituzionale. Nessuno di noi ha un ruolo istituzionale, anzi facciamo grande fatica a mobilitarci perché ognuno di noi ha il proprio lavoro e toglie tempo a famiglie, figli, lavoro, vita privata e hobby. E lo fa perché noi crediamo che la difesa delle regole costituzionali sia il principio basilare. Ma chi invece è dentro le istituzioni dovrebbe assurgere al proprio ruolo istituzionale. Quindi anche di fronte a una contestazione così dovrebbe così abbozzare, dovrebbe subire. È la cosa migliore perché sa benissimo che la reazione grossa dei cittadini e della folla dei cittadini italiani dell'altro ieri è perché ci sono stati caroselli con le macchine. C'è un tassista che ha portato uno dei ragazzi che ha suonato e mi diceva: sono sconvolto perché mi ha detto che venivo qua a suonare e non mi ha fatto pagare la corsa. Lei non ha fatto pagare. I tassisti romani che sappiamo che non sono proprio... C'è una categoria attaccata al soldo, non ho capito. E poi non sono proprio di centro-sinistra. La cosa che voglio dire semplicemente è che in questo ultimo anno, soprattutto al 14 dicembre, il momento in cui c'è stato il grande mercato delle vacche da parte di Berlusconi, e che si è attaccato... Mercato di che? Delle vacche in Parlamento. Non avevo capito la parola, non è che... No. Mercato delle vacche. In Parlamento. E allora i cittadini sono stati esasperati da questa situazione. Mm. Ed è per questo che hanno reagito con una grande... Vabbè, lei dice quindi via Berlusconi è risolto tutto l'Italia. No, un pazzo. Siccome siamo abituati noi opposizione, il centro-sinistra, che io definisco il centro-sinistra ovviamente, a darci come tafazziani delle martellate, qualsiasi cosa succeda c'è sempre cosa succede dopo. Certo che adesso c'è bisogno di far fronte a questa situazione, ma per questo che io credo che tutti i cittadini debbano riunirsi in una lobby democratica e trasversale per il controllo istituzionale. Quindi, per concludere, Mascia, il fatto che, me lo dica con un flash, il fatto che Berlusconi potrebbe essere stato colpito con una moneta in fronte, per lei ci sta nel gioco della contestazione? Secondo me sì, ci sta nel gioco della contestazione. È una cosa umorale da parte dei cittadini e è causata da... come Berlusconi si è comportato in tutti questi anni, negli ultimi 10 anni. Se l'è meritato, insomma, si è meritato le monete. 10 anni ha governato 8 anni, ha ridotto il paese come lo ha ridotto e ha pensato solo ai suoi interessi personali. Se avesse pensato meno ai suoi interessi personali e più agli interessi del paese, i cittadini non avrebbero agito in questa maniera. Perfetto, va bene, la ringrazio. No, questa è la sua posizione, no, perché devo andare in pubblicità se no sforo. La ringrazio, è stato molto chiaro. Grazie per essere stato con noi. Gianfranco Mascia, uno dei leader del Popolo Viola. Noi dobbiamo andare in pubblicità e meteo. Alle 8:35 minuti, allora continuiamo la lettura, l'analisi di quello che succederà questa settimana con l'incarico al professor Mario Monti, premier in pectore. Pare che entro la settimana farà le consultazioni con i partiti e poi entro la settimana dovrebbe varare il suo governo, sempre che abbia una legittimazione e un forte sostegno politico in Parlamento. Ne parliamo con Lucia Annunziata, che saluto, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, Annunziata. Buongiorno. Lucia Annunziata che tra l'altro a partire da questa sera in mezz'ora per analizzare la crisi quotidiani sulla crisi. Questo per capire che il momento è quello lì. 20:30, sempre sulla Rai 3 ovviamente. Allora Lucia Annunziata, una delle vulgate del momento è che abbiamo consegnato mani e piedi l'Italia alla Goldman Sachs, ai poteri forti, all'Unione Europea, alla BCE, perché il Mr. Spread, pare che Berlusconi definisca nell'intimità Mario Monti, no? Mr. Spread. È la famosa definizione, prima usavano i carri armati, adesso usano lo spread, il nostro amico Giuliano Ferrara, no? Esatto. Del golpe bianco, si intende. È così oppure è un'analisi di chi non si rende conto della situazione? No, figuriamoci. La situazione è questa: quando un paese si affida a un governo dei tecnici, è chiaramente un paese che confessa un default della politica. Questa è la storia più reale, nel senso che è ovvio che i governi tecnici sono un elemento di rottura, un elemento di emergenza e quindi in questo senso sono anche un elemento non costituzionale, non la Costituzione li prevede, ma non è un elemento di rottura della continuità. Da qui a dire che siamo consegnati alla Goldman Sachs, al complottone, eccetera, eccetera, lasciamo perdere la Goldman Sachs. La Goldman Sachs e le istituzioni internazionali sono due cose diverse. Chi dice che la Goldman Sachs dice la finanza, la perfida Albione, il mondo anglosassone, eccetera. Altro è invece la questione delle istituzioni internazionali, che certamente hanno avuto molto gioco in questa partita, ma d'altra parte le istituzioni, viviamo o non viviamo in un mondo globalizzato? Sì. Allora ci dobbiamo mettere d'accordo, o siamo in Europa e quindi le questioni europee sono di casa nostra, o viviamo nel mondo e quindi l'opinione del presidente americano conta anche per noi allo stesso modo. oppure no. Quello che trovo strano è che le persone che oggi dicono ci siamo consegnate alle grandi istituzioni sono le stesse persone che hanno detto beh vabbè bisogna fare la guerra in Iraq perché siamo tutti parte dell'Occidente. Senta, ma lei in un'intervista aveva detto anche temo il calcio dell'asino da parte di Berlusconi, non paragonando Berlusconi all'asino, ma insomma metaforicamente il calcio dell'asino è quando certo. L'asino sta è ferito, per finire, invece esatto. Si rialza e tira. Ecco, perché io penso... cosa farà Berlusconi? Pare che possa dire comunque noi abbiamo la maggioranza al Senato e comunque qualsiasi governo, anche un governo tecnico, ha bisogno di una forte legittimazione parlamentare, altrimenti certo. non può fare nulla. Guardi, quando ho parlato del calcio dell'asino parlavo del fatto che non ero sicura che Berlusconi si sarebbe dimesso, perché l'ho detto il giorno in cui lui aveva annunciato le dimissioni, e infatti le dimissioni vaghe come quelle che aveva promesso poi si sono rivelate si sono rivelate un elemento di incertezza per la politica, tant'è vero che poi tutto si è accelerato. Però l'idea è questa, io credo che Berlusconi non scomparirà giustamente dalla scena politica del paese, perché non si capirebbe neanche perché dovrebbe farlo, cioè è stato votato, è stato 17 anni nella nostra vita politica, è stato un grande politico, prendere o lasciare, io naturalmente sono contenta che non ci sia, è inutile che mi nasconda dietro le mie opinioni politiche, però è anche vero che è stato un politico formidabile che ha i voti consenso e se lui vuole e deve anche continuare a essere parte della scena politica. Quello che farà io non lo so, io credo che nonostante tutto Berlusconi capisca molto bene che noi siamo parte di un mondo occidentale che è comune e quindi a dispetto di tutto io credo che sarà rispettoso nei confronti di Monti. Poi certo su alcune cose farà battaglia politica, ma va bene. Per esempio il video che abbiamo visto, che Berlusconi abbiamo visto, rispetto a qualcuno lo paragona al 94, è passata un'epoca, ma era un Berlusconi sicuramente un po' dimesso in alcuni toni, sicuramente provato anche forse fisicamente, però un Berlusconi che ha detto rilancio, un Berlusconi che dice basta faziosità. Che Berlusconi ha visto lei in questo video messaggio? Appunto, un grande combattente come sempre. Guardi, non è solo che lui è dimesso, che sono passati 17 anni dal Berlusconi del 94, cioè quello era giovane, forte, pieno di energie, col viso molto più affilato, questo è un signore che ha quasi 20 anni in più, quello era un giovane imprenditore che aveva testosterone che usciva da tutte le parti, questo qui è un premier che ha avuto i suoi alti e bassi. A me piacerebbe che Berlusconi, avesse una terza fase, che è quello della persona che capisce finalmente che si può stare in politica senza compromessi di nessun tipo e in maniera trasparente. Questo lo dico come critica a molti dei riti politici italiani che non sono trasparenti, ma anche a Berlusconi che non ha mai ammesso un punto centrale su cui invece avrebbe dovuto essere trasparente, che è il suo conflitto di interessi. E le proteste contro Berlusconi come le giudica? Noi avevamo Gianfranco Mascia, uno dei leader del Popolo Viola, è stato subissato di messaggi a dire ma chi rappresentano questa gente? Ora pare addirittura secondo il secolo XIX, così avrebbe detto Berlusconi, è stato colpito da una monetina da 2 euro in fronte. Questa è notizia che solo il secolo XIX oggi dà. Il secolo XIX è un ottimo giornale, infatti. Si è dato la notizia, conosco bene il direttore La Rocca, deve aver ragione. Deve essere vero, ma che al di là di questo, colpito no in fronte a Berlusconi, le scene sì. Sono legittime da parte di chi aspettava la caduta di questo governo oppure sono sindrome da piazzale Loreto come titolo del giornale? Ma scusi, noi lasciamo perdere adesso tutte le cose, le conclusioni tragiche di storie tragiche, Saddam, Gheddafi, che non c'entrano niente con noi. Berlusconi moltissime volte quando cambiano i governi, siamo seri, quando ci sono nuovi governi e quando cambiano i governi ci sono sempre manifestazioni, non fa piacere a chi se ne va e non fa piacere e fa piacere quando si entra naturalmente che ci siano manifestazioni. Io francamente credo che sia del tutto legittimo, ma soprattutto a parte questo che sono legittime o meno, il clima che abbiamo vissuto all'epoca di Craxi non era quello che abbiamo vissuto l'altra sera. l'altra sera c'era, nonostante tutto, più un clima da concerto rock che un clima da odio sociale. E chi si ricorda quando Craxi è andato via, insomma, chi ha una certa età lo sa che era un paese, Craxi è andato via nell'odio, nel rancore, le monetine, diciamo l'altra sera, avete visto, no? I telefonini, mancava solo che facevano l'orchestra, insomma, voglio dire, è normale, non ho respirato un clima d'odio. Sì. C'è ora, si parla tanto di Berlusconi, si parla poco di Monti e di quello che farà Monti. Che farà? Una bella patrimoniale, l'ICI al ritorno, cioè il ritorno dell'ICI. L'ICI mi sembra abbastanza scontato. Già il tesoro ha quantificato il tesoro uscente, rispondendo all'Unione Europea, in 3 miliardi e mezzo il ritorno dell'ICI. Cioè, quindi che è il governo delle tasse? Perché inevitabilmente qualcosa. Sarà il governo di sangue, sudore e lacrime. La sfida è che ci sia un sangue, sudore e lacrime che una parte della popolazione non avverta come scaricata solo su se stessa. Cioè, lui ieri ha detto equità sociale, e l'equità sociale sarà legata al tipo di sacrifici. Se il mondo avvertirà, il mondo italiano avvertirà che i sacrifici sono uguali per tutti, credo che intorno a lui ci possa essere un consenso. Il problema dell'Italia è quello di creare una situazione in cui ci sia consenso ai sacrifici, mentre invece per esempio in Italia la sensazione che di moltissime persone è che paghino sempre i soliti noti. Questo è vero a sinistra ed è vero anche a destra, cioè i soliti noti poi chi sono? Noi abbiamo un problema enorme in Italia di capitali che vanno all'estero, di capitali che vanno nascosti, di evasioni fiscali, di non reinvestimento. È anche abbastanza chiaro che la gente dice no? Paghiamo un po' tutti, sangue, sudore, lacrime, ma vi è anche qualche privilegio. Va bene, allora. Lui ieri ha parlato, la sua, diciamo, il suo segnale ieri è stato equità sociale, no? Certo. Staremo a vedere. Intanto, nel ringraziarla, insomma, in bocca al lupo per questa nuova avventura, no? Il momento è di quello lì, di crisi, e quindi da stasera su Rai 3, in mezz'ora edizione serale dalle 23. Che farete? Cioè, inviterete i politici? Vedrete come vi orientate? Ma noi intanto spostiamo la trasmissione, quella da domenica rimane sempre lì, sì. Quello che noi chiamiamo l'intervistona, sta in studio, sul palchetto, eccetera, mentre invece questa qui la faremo dall'Hotel Colonna a Piazza Montecitorio, proprio per segnalare proprio anche nel cuore, sarà una cosa molto più veloce, sì, E quindi faremo quel che c'è da fare, nel senso che noi non faremo un TG perché non abbiamo i mezzi, ma la sfida è quella di fare, diciamo, di anticipare una riflessione, sia pur veloce, sull'argomento del giorno, insomma, anche perché, diciamoci la verità, i TG stanno sempre lì alle 8, ma ormai i media sono tali per cui sai già che cosa sta succedendo, non devi aspettare l'annunciatore, il filmato e poi fai il commento, no? Ormai è tutto così veloce che vale la pena di sfidare, no? Di anticipare, insomma. Allora, in bocca al lupo, grazie a Lucia Annunziata, grazie, per essere stata voi, con noi. Buon lavoro. Grazie, altrettanto. Allora, ascoltatori, 800240024, a voi la parola. Mauro da Teramo, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Che pensa di questo momento storico? Dica. Diciamo, molta felicità innanzitutto. E poi volevo un attimino ricordare la questione del lancio delle monetine a Craxi, sì. Che Berlusconi si sente indignato per quello che è successo l'altra sera, in riferimento magari a quei momenti. Ma io voglio anche ricordare a tutti i teleascoltatori che quello che successe quando Prodi si dimise, mi ricordo le mortadelle lanciate, sì, messe in Parlamento, certo. Esatto. La stessa... Non è proprio la stessa cosa, cioè tra un lancio di monetine e uno che esulta mostrando la mortadella, non è proprio fisicamente, come diciamo, no? Approccio, sì. non è proprio la stessa cosa ricevere delle monetine addosso. Assolutamente no, comunque in piazza c'erano persone che stavano festeggiando e non si è vista tutta questa ferocia nei suoi confronti. Vabbè, quindi lei dice, insomma, non si scandalizza, sono manifestazioni che ci possono stare a ogni cambio di governo. Grazie Mauro, voglio andare a Lucca da Giacomo, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Allora, a differenza dell'ascoltatore di prima, felicità, tristezza più che altro. E credo che l'Italia è in un momento epocale e ha perso un'occasione di fare proprio una svolta epocale. Cioè, Berlusconi si è dimesso, ma tutti i nostri parlamentari si dovrebbero dimettere, tutti, dal primo all'ultimo, perché è una vergogna, tutti, ricominciare un'era nuova. Sacrifici sì. Però Giacomo, questo si è detto sempre, con mani pulite doveva essere un'era nuova. Cioè, lei si rende conto, l'idea di si dimettono tutti, che vuol dire? Si va alle elezioni e quindi si dice si va, lei voleva le elezioni quindi? No, io volevo cambiamento epocale. Se si dimette il Parlamento, Parlamento si deve andare a votare. Non è che... Guardi, siamo insomma, io credo siamo in un momento storico molto particolare, quindi le persone si dovrebbero mettere una mano sulla coscienza che ci governano questo lo seguo, mettere una mano sulla coscienza e fare quello che serve, ma dimettersi, capisce che voglio dire, si dimettono, cade tutto e si deve andare a votare, quindi due o tre mesi. C'è odore di vecchio, capisce? Ci vuole gente, c'è odore di vecchio, bisogna cambiare, cambiamento epocale. Cambiamento. E Monti lo porta, secondo lei, il cambiamento? No, assolutamente no. Insomma, lei è un ottimista inguaribile. Grazie Giacomo. Davide da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno Milan. Dica. Senta, forse un po' per deformazione professionale io mi sono posto questa domanda, no? Se quando tutto va male e praticamente si tocca al fondo, devono intervenire i tecnici per risolvere i problemi, la politica a cosa serve? Alla fine bisogna fare delle cose, si può anche parlare, perché insomma... Però Davide, non mi faccia l'errore come il mitico ascoltatore della scorsa settimana che pensa che arrivi al governo tecnico e decidano tutti i tecnici. Come lei ben sa, il governo tecnico ha bisogno di una fiducia in Parlamento, di una... Anche la persona, io ho votato a destra le ultime elezioni, sono abbastanza deluso un po' dei risultati che alla fine sono scaturiti da questo governo. Abbiamo mandato al governo la persona che era la più rappresentativa d'Italia, quella che raccoglieva i più alti consensi, quello che aveva uno dei migliori della storia, sembrava, italiana, sì, fino al momento in cui purtroppo si è dimostrato che magari non lui, però le persone con le quali si è circondato. Però io le ribatto la domanda, Davide, cioè lei pensa che un governo tecnico riesca a togliere tutte quelle incrostazioni, lacci, lacciuoli del nostro paese che la politica non riesce a sbrogliare? Sono certo contento di quello che sicuramente si dovrà andare a fare, però sta di fatto che siamo in un punto in cui qualcosa va necessariamente fatto. Come sempre non si riuscirà a far contento tutti quanti, anzi in questa fase probabilmente, però alla fine di tutto anche quelli che dicono sì, ma non è il nostro debito, i problemi non sono i nostri, purtroppo siamo arrivati a un punto dove qualcuno ci sta chiedendo un conto, qualcosa da fare, e vedremo. Chi è che ha fiducia in Monti? Alessandro da Cremona, buongiorno. Lei ha fiducia nel professor Monti? Buongiorno ai telespettatori. Sì, io ho fiducia in una persona assolutamente seria, capace, che negli anni ha dimostrato di saper mettere mano ai problemi economici. Io ho un sentimento che però non è né di giubilo né di tristezza, è un sentimento di liberazione da un incubo. Speriamo che attraverso il governo Monti si possa temporaneamente mettere mano ai conti pubblici, che sono in una situazione drammatica, abbiamo bisogno di risanamento, quindi la ricetta sarà senz'altro una ricetta lacrime e sangue, poi speriamo di tornare a crescere. Lei crede a questa idea di lacrime e sangue, ma con equità sociale, così ha promesso Monti, cioè, quindi va bene, magari bisognerà rimettere l'ICI, magari una patrimoniale, però poi anche qualcun altro pagherà. Assolutamente sì, credo anche nel valore delle nostre istituzioni. Abbiamo comunque ancora, come si diceva prima, un Parlamento che è in grado di dare fiducia o di negarla, abbiamo soprattutto un Presidente della Repubblica che merita l'apprezzamento di tutti gli italiani per come ha saputo gestire un momento veramente drammatico. Perfetto, la ringrazio Alessandro, e con lei concludo a tutti gli ascoltatori, grazie, così come Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi e Viola Bottoni in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè in regia. Seguiremo dunque questa settimana del governo Monti, se nascerà. Voi andate su Facebook 24 Mattino, è la nostra pagina, lì continua la discussione e potete scriverci a 24 Mattino @radio24.it. A domani alle 7:20.